allo sguardo mi apparve la terra, tra gli albori di un sole nascente. Nel vederla, nel vederla, il mio cuore si serra, nel mio petto mi balza fremente. Tra le nebbie lontane, lontane, già discorgo del porto i fanali, non più lungi il suolo toscano che fu patria di tanti immortali, immortali. Ristringere al seno la mia sposa e i miei figli adorati, ma l'amplesso, ma l'amplesso più puro e sereno, gioirò tra questi esseri amati. Ma per sempre la fede del cuore serberò per chi soffre, chi geme, ma l'ideale di pace ed amore sempre la sola, mi aspeme, mi aspeme.